Già ti perdono, or che ne van dal ciel si ricco dono, che se fatto bambina per amarmi il segno, che tutto dolce non conosces degno, che tutto dolce non conosces degno, non conosces degno. Metta pure su, su, su, su, su, su, su, metta pure su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, I'm gonna